quello lo zero, zero negativo. Io vivo nell'istante prima che arrivi il mattino. Non sono un vampiro, ma mi nutro delle parole che scrivo. Con tutto il mio sangue messo dentro ad un abiro. Zero, zero negativo, zero chiacchiere sempre che ce ne sia un motivo. Serio, zero negativo, perché sono sicuro che nessuno questo mondo è nato già per essere il cattivo. Sono zero, zero negativo. Mi guardo nello specchio e metto in alto il terzo dito. Io sono quello che ti fa l'invito di tornartene da dove sei partito. Se ti dà fastidio che io sono zero, zero negativo. Io vivo nell'istante prima che arrivi il mattino. Non sono un vampiro, ma mi nutro delle parole che scrivo. Con tutto il mio sangue messo dentro ad un abiro. E chi erano? 16 Monkeys Armata da Bari. Tanta roba, secondo noi. Terza puntata, pillola rossa. È un miraggio, ormai ci siamo staccati dalla riva, siamo in mare aperto, giusto? E, piccola discrezione sul significato di piccola rossa, di pillola rossa. Pillola rossa, ci siamo immaginati pillola rossa da Matrix, insomma, sembra la solita banalità, ma la pillola rossa la prende chi vuole vedere la realtà, altrimenti piglia la pillola blu. La pillola blu te la pigli tu. Scusate se rido il microfono. Io vorrei chiedere scusa da parte mia per l'altra volta, l'altra puntata, perché... No, ma ci hanno detto che non dobbiamo chiedere scusa. Non dobbiamo chiedere scusa? Quindi... Oh, ok, allora... Se non dobbiamo chiedere scusa, cosa facciamo? Introduciamo il pezzo senza... No, voglio spiegare l'italiano. No, l'italiano un'altra volta. No, l'italiano... In italiano, per un... Come dicevamo le altre puntate... Per la comprensione del testo. Uno che comprende il testo ovviamente capisce, recepisce e agisce. C'è una trasmissione. C'è una trasmissione. Da Pordenone. Il Prozac più. Ti lascerò. Forse nessuno si accorgerà. Forse domani sorriderò. Forse nessuno mi guarderà. Forse domani mi scuserò. Forse era un sogno. Domani mi sveglierò.

è un 8 e mezza molto largo, no? Cioè, noi diciamo sempre 8 e mezza. Noi diciamo sempre 8 e mezza perché insomma le 8 e mezza noi siamo qua. Poi cosa stiamo facendo qua? Siamo qua. Poi siamo in ritardo, no? Non lo so. Vabbè, chi non era in ritardo erano gli Oliver Onions, spazio 1999. Erano un po' avanti in questo caso. Erano avanti, non erano in ritardo. Erano un po' avanti. C'è un mostro che distrugge tutte le astronavi, riduce in mille pezzi missili e robot. Lo spazio è pieno. Stiamo tentando di metterci in comunicazione con voi e ci stiamo lavorando sopra, quindi dovrebbero arrivare baracchette, telefoni, cose per scrivere messaggi. Qualcosa, no? Ci inventiamo, sì, qualcosa ci inventiamo. Ci sta lavorando. Nel frattempo stiamo lavorando alla vecchia maniera, insomma, no? Cioè, dica qual è la vecchia maniera? La vecchia maniera è che la gente, insomma, si incontra e dice: potresti mettere quel pezzo, cioè secondo me. E quindi stiamo raccogliendo un po' di materiale dal pubblico. Arrivano dritte e storte, dalle creature all'ascolto. Facciamo un po' di selezione, però. Selezione all'ingresso. Assolutamente no, noi prendiamo tutto quello che ci arriva. E questo è uno di quelli. Riceviamo un e gentile volentieri concessione, pubblichiamo. Gentile suggerimento che non conoscevamo. Quindi. Ragazzi. Guardate, toglie anche il tappeto, è tutta per voi. Io prima no, vai con lei così proprio. Eh sì. We'll be right back. aria violenza. Palermo, Roma, oggi, gente che sono oggi. Sicilian Ghost o Sicilian, non lo so come si dice. Prego, ho detto prego. E se preghiamo? Cosa fai? Mangi? E la preghierina non la dici? Padre nostro che sei nei cieli, spero che tu stia bene, perché io qui faccio una vita d'inferno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, possibilmente fresco. Faccio presente che non ho debiti, non ho debitori. Dove vivo non ci sono tentazioni, così è. Così è. O flaga di scopazzi. Kapler. Media. Arrivava l'una ed ero ancora a letto. Ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile. Kapler! Una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola e quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola al pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Figlio, signora, ha la faccia come il culo. Ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8. Kapler, andò in pensione 3 anni dopo quella maturità. Morì nel giro di qualche mese. Kapler avrà trovato le platte nei piatti della mensa scolastica? Dici le platte ai pezzi di vetro? Cioè quella con quel pezzo di vetro dentro? Platte e pezzi di vetro. E no, non lo so, non lo so. A tal punto, no, non si dice a tal punto. Merito a questo, comunque, per continuare il discorso dell'altra volta sulla scuola. Sulla scuola, sul su questo episodio di panini al vetro e plastica e pure con blatto, c'è la risposta di Milano Ristorazione. Ragazzi, c'è una testimonianza, c'è una prova. In tribunale si dice che c'è una prova. E dopo c'è il castigo. Specifica che in merito al ritrovamento dell'insetto, vogliamo chiarire che non si tratta di una blatta, bensì di un insetto da campo. Wow, insetto da campo, come delicato. Appartenente all'ordine dei coleotteri. Capì. Che sono i buoni. I coleotteri sono i buoni. Ciumbia. La sua presenza è attribuibile alle verdure, alla produzione integrata. Quindi vuol dire che è una cosa buona e sana. Giusto. Sana. Sì, sostanzialmente mi sembra che voglia dire, ovvero impiegando sistemi di lotta. Scusa, ma il vetro, non capisco il vetro, perché hai detto la parola vetro prima, era blatta vetro, forse ho sentito male. No, il vetro era legato al, era il ripieno del pane. Ah, è per educare i bambini al masticamento? Com'è? Il masticamento del vetro mi manca, sinceramente. Cioè, Milano Ristorazione ci può spiegare meglio come, sai come funziona? Cioè, cosa dicono? No, hanno detto che sostanzialmente per quanto riguarda invece il vetro... Sì? Dice che hanno proceduto alle verifiche e ai controlli e... Ed è vetro. E però in nessuna delle attività effettuate presso le nostre strutture, presso il fornitore, dopo il primo e il secondo ritrovamento, non sono state ritrovate cose non conformi. Vetro è vetro, rimane, no? Cioè, il vetro, quindi è va vetro. Bene alla fine. Che problema c'è? Quindi vetro rimane vetro e le blatte sono blatte da campo, no? Assolutamente. Fuori quota. È vero. Parlano in un'altra lingua, ma sono italiani. Ci sarà un fuori quota puntata. Ed è? Alpaca da Mantova. L'eccezione che conferma la regola. Il fuori quota, non di alpaca. We'll be right back. da Mantova. Allora, queste sono le istruzioni per l'emergenza. Prima cosa, dobbiamo conquistare il voto Ricchione. Allora, Formigoni già sta facendo con il suo nuovo stilista, ma non basta. Giovanardi, ti devi sacrificare. Giovanardi, hai a diventare il Vendola di destra. Giovanà, hai a mettere l'orecchino. O ti metti l'orecchino, oppure sposti l'anella dal naso all'orecchio. Ripeto, spostare anella da naso a orecchio. Se poi non basta, richiamare Bertinotti. Mi chiamo Banana Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto. Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino. Ah. No, no, io non sono Pinco Pallino. Io sono Banana Joe. E non lo vedi, ecco la foto. Io guardi, sono Joe. Guardi, signor Joe, faccia così. Vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita. E con le foto che ci faccio? Quando torna col certificato di nascita mi porta anche le fotografie. Quello di prima, per chi non lo sapesse, erano i Wretched con Troppo Facile. Punk anni 80. Decisamente anni 80, primissimi 80, Milano. Cosa da virus. Amici, ed ora vi canterò una canzone tratta dalla colonna sonora del mio ultimo film neo-neorealista, Padre e Figlio. Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste, guardando malinconico il giacilio di sua moglie grassa in sottoveste. E mentre gira piano la maniglia per evadere dal suo tormento, esce impertinente il ragazzino, gli chiede: padre, dove stai andando? Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans, solamente con i trans, ribadisco, con i trans. Ormai piagnucolante il fanciulino gli chiede: padre, cosa sono i trans? Ma come fa a spiegare al suo infante? Son donne dal clitoride ingombrante. Gli dice: il trans è una cosa bella, è come aver fratello con sorella, ma uniti in una persona sola che t'ama con tutto il cuore in gola. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, ho già l'appuntamento e tu mi stai trattenendo. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, ti porto, lo prometto, quando ci avrai il pizzetto, così andrai a trans, anche tu andrai a trans, finalmente andrai a trans. Io sono Banana Joe e vorrei un certificato di nascita. Mi favorisca la sua carta d'identità. Ehi, ma che mi stai prendendo per il sedere? Io voglio la carta d'identità, eccole foto. Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la carta d'identità. Io vengo dallo sportello 16. Se non mi dà la carta d'identità io non le do il certificato di nascita. Era Ruggero dei Timidi, padre e figlio, da Udine. Al mercato porta rumana, per una storia di quattro scigol, tutti i don saranno stana vintena, se remmi sadrea fa question. A pe in bicicletta di corsa, riveni ghise un quai pulè, per un quai bun e se scalda il vosa, per fermai e per fai tasè. Mi me par che anche i più se stupid, quando si tratta di ciapa e se, ben o mal, tanto ormai le inutil, bambia tu ce ne parla in più. Li linci invece de mucala, di nanda sotto a mo più se e antacada via botte vera, contra i ghise addossa i pulè. Quanto isti d'un è per terra, che rendrea ciapa e su de bon, m'è venu come una gran veia, de saltaggio ad aguna man. Del se spiando e che gula stanza, che vusavi già me un strascè, dai kincot che gan troppa pancia, forza donde gado salè. Un bel momento vino alla setaca, ai calzon d'un vec marescial, che il caisse il se sbatte il vusa, abbassa le lecce e chi le fa. Un'altra la salta su mena bisa, e la strange forte in messa ai chap, e il crapon del sergente di ghisa, che il se metta a criame un mat. La più se grassa della banda, la sbuttò nel suo regipet, e a tutti quei che gira intorno, la che molla cassot cui tet, che casotti pule che usen, e i dunet che gevan ados, se saminga in due le che picchen, fatto sta che se senti os. Quanta ambiscan vinci la guerra, che faceva più nienni su, i dunet si sbassa per terra, a catassu anche a moi scigol. Che resta però una gran veia, dentro Andrea strepac via i marun, meno mal che aveva in menga, se de no che il faceva in de bun, se de no che il faceva in de bun, se de no che il faceva in de bun. Momento culturale? Era Nanni Svamp al mercato di Porta Romana. Sì, era milanese. Momento culturale. Illustrissimi bevitori, nobili gaglioffi, onorevoli cionchi, indagatori di fiaschi, sollevatori di boccali, investigatori di pubi, responsabili della nebbia, discepoli di San Martino, depravati, alzatori di gomito, abbassatori di gomito, assetati e avvinazzati, banchettatori e tracannatori, annaffiatori di gole, pancioni, petonami e funambuli, fratelli carissimi, folli e bulatori. In conclusione ricordatevi ancora una cosa: se volete conservare la vostra vita in salute e freschezza di spirito, rispettate attentamente queste sei regole. Trattato sul buon uso del vino, che deve essere abbondante e continuo per alleviare l'anima e il corpo e contro tutte le malattie degli organi esterni e interni. Composto a uso e profitto degli illuminati, dei fratelli della corporazione, dei nasi scintillanti, dal maestro Alco Fribas, coppiere supremo del grande Pantagruele. trattato sul buon uso del vino. François Rabelais. Questa è lì il refrain. Terra. Da Roma. Lo ridico, è lì il refrain, perché prima ho sbiascicato un po', forse. No, mi sono distratto, non mi sembrava. Terra. Terra. Nome del pezzo, titolo. Si sente tutto. Thank you. sentenziato, gli animali sulle bestie hanno trionfato. Il futuro predetto è sentenziato, gli animali sulle bestie hanno trionfato. Sempre da Roma, il ciclo di Beppe. La luna. Meglio non vedere come Mr. Magoo.

Caso il governo cominciò la sua opera con un decreto che inaspriva le pene per i rave party, un'emergenza che tra le emergenze italiane sta davvero in fondo alla lista e ancora oggi nei suoi comizi teatrino tra faccette e vocette e smorfiette il la premier ci ricorda di aver fermato i rave con l'orgoglio di chi dice di aver sconfitto la fame nel mondo, generando in chi l'ascolta una stupita ammirazione. Era solo l'inizio. Cade la notte e i vostri sogni si fanno pesanti, ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo. Quando sorge il sole, voi vi siete già stancati della vita. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della noia. Noi corriamo sotto il sole, calpestiamo il fumo che vi fa pubblicità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo. Dentro il buio riversiamo sperma sulle vostre inibizioni. Benvenuti tra i rifiuti, qui non c'è la polizia. Benvenuti tra i rifiuti, qui la legge siamo noi. Benvenuti tra i rifiuti, non vi butteremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Fausto da Pordenone, erano gli anni 70 e questo era Benvenuti tra i rifiuti. Grazie Fausto per il suo viaggio in mezzo ai rifiuti. Non sminuire, dai. E, per quanto riguarda gli appuntamenti, concerti, sempre a corto raggio li diamo noi perché è più pratico. E, 29-30 marzo qua a Milano. Qua a Milano, che non siamo sulla zona. E, zona Corbetto, al CIC, il Circolo Internazionale di Quartiere, c'è un festival, sono 40 band. Ciulla. Ovviamente sottoscrizione, quindi sarà i soliti 5 euro, immagino. Bob Festival, ovvero Van in Bob. Bottom of the Bottle. Ridimmela. Bottom of the bottle. Il bottone della bottiglia? Ma se vuoi lo interpretiamo così. Non conosco la lingua dell'impero Cristo, che cazzo vuol dire? E quindi ci sono, ritroviamo i 66CL che hanno presenziato qui a ZAM settimana scorsa. E vengono qua a Bottom and the Bottle? E ci sono anche loro, ci sono anche gli Infected, ci sono anche Medium Beer, ci sono un sacco di gruppi, non li dico tutti, ci sono Don Gatto. Visto che non li dici tutti. E c'è Cat Pounder, c'è Reverie, ci sono gli RTV, un sacco di roba, insomma un sacco di distro, è un festival do it yourself, quindi un sacco di bancarelle e autoproduzioni. E noi aspettiamo. Una cosa che non dovevamo fare, però ci riscoltiamo un pezzo

buon lavoro e buona giornata. Grazie, grazie mille, molto gentile. Ma sei un po' d'allegria, il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame. Poi spargo il letame. Praticamente è una giornata di merda. Morte ai poveri! Pier Paolo Capovilla e i cattivi maestri. Io sono soddisfatto. E adesso c'è l'ultima, l'ultimo pezzo della terza puntata. Ci vediamo alla quarta puntata. Sempre mercoledì. Bravo. Sempre 8:30. Che si scherza, che siamo dei ritardatari. Ma, se ma sempre meno, però. Sempre meno ritardatari. Sì. Qua che figata. Un saluto a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di ascoltarci, ovviamente.